Buon pomeriggio e buon inizio di Fujiko Factory. Io sono Lucri e insieme a me ci sono Adelina e Giuli. Ciao a tutti. Giuli, Lucri e Adelina in questa nuova puntata di Fujiko Factory. Come sempre in sottofondo Glenn Miller, che anche lui ci terrà compagnia fino alle 17. Una puntata che sarà molto a staffetta, perché appunto in mia compagnia ci sarete voi due, ma a un certo punto ci si intercambierà anche con Alfo, che è in redazione con noi. Quindi redazione musicale al completo per questo Fujiko Factory, che parte in realtà oggi ovviamente come sempre parlando di musica. Certo, io tra l'altro volevo dire, iniziare subito a dire una cosa, che oggi è il 4 febbraio, è da giovedì, e febbraio quest'anno è un mese bellissimo. Perché? Perché è iniziato il 1 febbraio, era lunedì, quindi il primo giorno della settimana, e finirà di domenica, quindi 28 febbraio finirà di domenica. E l'anno scorso non è stato un mese fortunato in realtà febbraio, perché se seguiamo il detto anno bisesto anno funesto, diciamo che l'anno scorso è stato un anno decisamente funesto, invece quest'anno febbraio parte bene, quindi speriamo che ci porti fortuna. Ma in realtà è partita bene anche la nostra puntata, lo possiamo dire, che sei senza sedia quindi sei in piedi. Sono in piedi, è vero, perché stavo per cadere dallo sgabello. Però la cosa divertente è che io sono seduta, tu sei in piedi, siamo alte uguali. Lucri, questa è cattiveria. Però Giuli, te che ci vedi? Io che vi vedo posso dire che più o meno l'altezza è quella, ragione Lupi. Vabbè, però sì, possiamo ammettere che la mia sedia è molto alta. Adesso vado a chiamare Alfonso e gli chiedo subito il cambio. Perché Alfonso è alto, quindi non in piedi potrebbe starci. Vabbè, mi sento un po' bullizzata. Assolutamente però, no, ma appunto già da subito vi lanciamo la domanda, sentite un po', a cui dovete rispondere. Ma prima, rullo di tamburi, la domanda a cui dovete rispondere oggi è la seguente. Qual è la domanda? Qual è stato il vostro ultimo concerto e di raccontarcelo, però brevemente, perché sennò non sarebbe divertente. Esatto, se volete scriverci subito la risposta potete farlo scrivendoci al 333 180 94 94. Un messaggio SMS, WhatsApp o Telegram, ma anche un audio, basta che, come si dice a Bologna, sia brenzo. Brenzo. Perché se ci mandate audio di 8 minuti. Io non sono di Bologna, vorrei avere la definizione della parola brenzo. Allora, brenzo, in modo molto brenzo, è breve ma intenso. Bello. Brenzo, quindi un audio breve ma intenso, brenzo, per stare nel mood bolognese, dove appunto ci raccontate il vostro ultimo concerto e soprattutto, insomma, dove è stato, con chi è stato, come è stato. Io non me lo ricordo neanche, Lucri, il mio ultimo concerto. Io sì, però ovviamente non ve lo spoilererò subito, ma dovete stare in nostra compagnia fino alle 17 e appunto puntata piena di musica, ma come vi ricordate ogni giovedì dalle 14, no non è vero, dalle 16.30 alle 17, ogni tanto sono dislessica sui numeri. No, ma non ti preoccupare. Comunque 16.30, anche Giuli ce lo conferma. Confermo, confermi, confermi, partirà. Partirà The Show Must Go On. The Show Must Go On, che appunto ogni giovedì è questo concerto tutto per voi per Radio Città Fujiko sui 103.1. E a proposito sempre di musica, direi di partire con la prima canzone, visto che insomma dicevamo che febbraio è stato un po' così, siamo partiti con febbraio, puntata tutta molto musicale a tema di concerti, quindi direi cantiamo che entro ci passa. Entro dentro un negozio, vendono sogni nel cassetto, chiedo al commesso, mi guarda storto e dice: provi questa maglietta, non è la taglia, è la vita che mi va stretta. Poi nella testa penso: certo, sono d'accordo, è per amare e riprodurci che siamo al mondo, per stare bene tutti insieme senza rancore e lavorare su noi stessi per migliorare. Ma niente, non ce la faccio, mi dispiace, oggi mi state tutti sul cazzo. In realtà non siete voi, ma sono io, non c'entra niente il destino, neanche Dio. E allora sveglia, sono le 8, fuori piove a dirotto, alzo il cappuccio, due sigarette mezze rotte dentro al giubbotto. Dei ragazzi sul viadotto si fanno le foto, è un motorino con le frange, quanti ricordi, tipo mio padre con i baffi, i denti storti, la fantasia al potere, il dare avere, ragione riesteccare fumo, a ricreazione, riapro gli occhi allora corro, senza pensare che non ho smesso di fumare, ecco il fiatone, qualcuno dice hai 40 anni, non ti vergogni. Ed ha ragione, odio la mia generazione. Mamma, cos'è successo? Oggi la più grande paura è l'insuccesso. Io che un poco ne ho. ti passa. La verità è che non mi basta. Lo voglio tutto questo dolore che mi fa bene. Di me, di te, di noi, questi erano gli Zen Circus con Canta che ti passa. E ci tengo a rassicurare tutti i nostri ascoltatori, ma soprattutto la nostra ascoltatrice Anna Uras, che abbiamo messo in sicurezza Adelina e le abbiamo dato una sedia su cui poggiarsi. Il problema, grazie Anna, grazie Anna. Il problema è che anche questa sedia è bassa. Guarda Luca, te lo dico in diretta, sei proprio una stronza. Ma non ho scelto io l'arredamento di questa radio, non sì, ho scelto io le sedie. Tu questo sgabello perché. Ma c'era solo questo. Informiamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, che Lucri molto gentilmente è andata a trovarmi uno sgabello e me l'ha preso ancora più basso. No, non è che è ancora più basso, sì, quello che passava al convento, come si suol dire, era questa. Nell'altre, insomma, vabbè, stanno registrando negli studi, quindi non è che poteva entrare e smontare cose. Grazie Anna per il supporto da casa, io lo apprezzo molto. Che ci scrivi, ma cos'è sto body shaming della povera Adelina? Esatto. Questo è proprio body shaming. No, ecco, questo è proprio body questa shaming. È una cosa seria, è serio parlare del body shaming. Siamo totalmente contrari. Questo in realtà è semplicemente un voler bene Adelina. No, assolutamente no, non me lo merito, anzi addirittura no, perché io this sono was the first reaction. Shock because no, ecco. Adelina, io ti tolgo il microfono, ti spengo. Lite in diretta, no, ma non è vero. No, in realtà è solo Radio Trash, Radio Verità, ma come la verità è che abbiamo messo gli Zen con Canta che ti passa, perché Giulia, cioè io è arrivata qualche settimana fa dicendo a me piacciono gli Zen Circus. Allora, io ammetto, piccolo grande spoiler, che il mio preferito è Karim Kukuru, nonché il batterista degli Zen Circus. Però gli Zen, sì, sono il mio grande amore. Cioè, sostanzialmente li ascolto da poco, però più o meno 2 annetti. Però li ho visti un paio di volte e sono rimasta affascinata. Ma poi, a parte, cioè, un aneddoto divertente, è che una volta stavo camminando a Bologna con la canottiera degli Zen Circus, con scritto Vivi si muore, e una vecchietta di quelle un po' vagabonde che camminano per le strade bolognesi, che si ferma, mi fa: wow, bella la maglietta, dove l'hai presa? E gli ho detto: ah, il concerto degli Zen Circus. E lei non ha capito molto bene, ha fatto: ah, ok, una faccia strana, è andata dritta, però ok. E tra l'altro hai citato Vivi si muore, che è una delle canzoni forse più belle degli Zen. Stavo dicendo gli Zen, invece no, sono gli Zen, che appunto loro hanno partecipato. Perché ridi? No, così, questa mi sembra una puntata spumeggiante. Spumeggiante, assolutamente sì. Anzi, la nostra parola preferita di oggi è Ottimo. Quindi dovrete contare quante volte riusciremo a dire la parola ottimo. Ottimo. Perché il nostro intento è inserire a caso proprio ottimo. Ottimo. Ottimo e abbondante, come diceva il mio professore di inglese, che ahimè non abbiamo mai avuto un buon rapporto. Comunque, la cosa importante è che stavamo dicendo Zen Circus. Ti ricordi quando hanno fatto il concerto al Paladozza per i 20 anni di carriera? C'ero. Io non ci sono stata, ahimè, però ecco, quello è uno di quei concerti che mi pento di non essere andata e spero quindi di rivedere gli Zen presto, anche perché da poco sono riusciti con un album nuovo, anche forse un po' diverso dal solito, ma molto bello. Sì, ammetto che a me l'ultimo album è piaciuto molto, ma soprattutto c'è la canzone Appesi alla Luna, che quella penso è anche uscita come singolo, mi pare, quindi è la mia preferita. Poi le altre ancora devo un attimo approfondirle un po' meglio, però comunque quelle vecchie, bellissime, le conosco. La mia preferita degli Zen, grazie per avermelo chiesto, Lucri. Adelina, qual è la tua canzone preferita degli Zen? Andate tutti a fanculo. Ma non avevo dubbi, guarda, non te l'ho chiesto proprio perché immaginavo che come potesse essere scontata. Quella assolutamente sì, tra l'altro una canzone tipo di 6 minuti, esatto. Bellissima, no, però è bellissima indubbiamente, bellissima. Il focus principale è andate tutti a fanculo. Benissimo, ma invece anziché andare a rimanete sintonizzati e sintonizzate sui 103.1, tu giustamente citavi la luna per gli Zen, invece noi mettiamo Come la luna dei Management. Sul volto quanto aveva i lividi, i pugni, gli occhi neri. E come un lupo lei non si fidava mai. E non aveva più le lacrime, neanche un sorriso, i vestiti strappati e gli schiaffi sul viso. Ma dentro agli occhi aveva la notte come la luna, e dentro agli occhi aveva le botte come la luna. Aveva il freddo dentro, il freddo che ti ghiaccia le mani, e non credeva più all'amore, e non voleva un angelo custode. Cinta sulla schiena, la faccia contro il muro, il corpo pieno di segni, come un frutto troppo maturo. E come questa luna vestiva sempre di nero, e certi giorni si nascondeva un po' nel buio. Ma dentro agli occhi aveva la notte come la luna, e dentro agli occhi aveva le botte come la luna. Aveva il freddo dentro, il freddo che ti ghiaccia le mani, e non credeva più all'amore, e non voleva un angelo custode. La stringevo forte, non pensava alla morte. Se la stringevo forte, non pensava alla morte. Se la stringevo forte, non pensava alla morte. Se la stringevo forte. Ma dentro agli occhi aveva la notte come la luna, e dentro agli occhi aveva le botte come la luna. Aveva il freddo dentro, il freddo che ti ghiaccia le mani, e non credeva più all'amore, e non voleva un angelo custode. E non voleva un angelo custode. Lei non voleva un angelo custode. Come la luna abbiamo appena ascoltato i Management, che hanno appunto presentato non molto tempo fa. Io non sento nulla perché avevo abbassato, ora sento molto bene. Appunto abbiamo appena ascoltato Come la luna, questo brano che ha anticipato il brano che è uscito a novembre, Sumo. Questo brano, diciamo che al primo ascolto è una, diciamo che è un pezzo sincero e profondo che ha ricollegato fin da subito per testo e sonorità ad uno di quelli che, diciamo, possiamo reputare come uno dei loro migliori pezzi, ovvero Naufragando. Questa volta però Luca Romagnoli ci ha posti di fronte ad una tematica che fino ad ora non avevano mai trattato, o almeno diciamo non con questa vicinanza e profondità: la violenza. Quella che ci ritroviamo ad ascoltare è una storia fatta di immagini, immagini e segni, gli stessi segni che la protagonista del pezzo si trova addosso. Sul volto avevo i lividi, i pugni, gli occhi neri. Se la stringevo forte non pensava alla morte. Quindi insomma un testo molto forte. Sì, tra l'altro appena stavi leggendo la canzone invece mi è venuto un flash di quelli che ogni tanto mi vengono in mente riguardo un'altra canzone invece di un autore come definire quest'autore? Meraviglioso. Volevo dire ottimo, però non è appropriata in questo caso, che è De André, perché tu leggevi e mi è subito venuta in mente la frase che dice: non mi uccise la morte, ma due... Adesso la sbaglio. Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte. Sì. Mi spaccarono l'anima morta. Ah, vabbè. Vabbè, l'abbiamo capita. Chi conosce De André ha colto... Scusa, io sono pure ligure e in questo momento ci sarà mia madre da casa che starà piangendo per la vergogna. mia mamma e dirà scusa. Cosa ho sbagliato nella mia vita. Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi fermarono l'anima a colpi di botte. E poi Adelina sbagliò il verso e la cittadinanza ligure le tolsero. Sì, un po' di campanilismo, l'abbiamo passato tutti oggi. Siamo passati dal body shaming. Prima Giulia ha fatto anche una nota che secondo me era un po' ageista, e adesso campanilismo. L'abbiamo detto. Olè, abbiamo fatto tutto. Ottimo, è il modo migliore ottimo. Per partire con questa puntata di Fujiko Factory. 15-22, Anna, stai scrivendo, noi ti vediamo. Cosa hai scritto? Non ho capito. Mi cercarono l'anima a forza di botte. Secondo coro, me, grazie a Wikipediato. Scusa, ma questa è l'ansia da diretta che poi mi prende così e sbaglio pure De André. Però Nina, io ti chiedo scusa. E infatti, prima ancora di fare questa gaffe, avevo chiesto a Lucri di mettere un brano dopo da dedicarti, perché so che sei in ascolto e quindi oggi ti vorrei dedicare questo brano. Ma a proposito di questo, Nina, cioè quando tu non ci sei in radio, noi parliamo con te. Quindi effettivamente è come se tu fossi sempre qui in radio con noi, come appunto in questa puntata di Fujiko Factory del giovedì, l'ultima di questa settimana, sempre dalle 15 alle 17, oggi la prima puntata di Giulia in diretta con noi. Sì, è la prima volta, sono un po' agitata, però in realtà dai, sta andando bene, me l'aspettavo più traumatica come cosa. Beh, bene, bene, meno male che non ti stiamo traumatizzando, sei solo un po' traumatizzata Adelina, ma si è già ripresa, ma soprattutto... Dello scabello ancora, sono seduta praticamente per terra. Questo... cioè, allora, so. Facciamo un appello, se vi trovate vicino a via Zanardi, volete portare una seggiola alta, però molto alta, più alta di quanto potreste immaginare, portatela da Adelina. Grazie. Su 103.1, cioè proprio la portate in frequenza. Sì, no, la voglio direttamente in diretta. Benissimo. Portateci uno sgabello. Esatto, hashtag portateci uno sgabello. Finalmente è partito il primo hashtag di questa puntata, mentre l'altro è quella che continua ad essere ultimo concerto, perché appunto, insomma, oggi parleremo un po' di questo hashtag che appunto 100 locali hanno simulato la morte sui social, mettendo appunto la data di inizio della loro attività, mettendo poi 2021 come data finale. Il tutto ovviamente per dare un segnale e soprattutto, insomma, è sicuramente una campagna di sensibilizzazione. L'uso dei social in questo modo, a mio avviso, sono un ottimo modo per farne da cassa di risonanza, e anche noi oggi all'interno del nostro Fujiko Factory ne faremo una cassa di risonanza. Ma non parleremo solo noi tre e poi Alfo con noi, ma soprattutto parlerete voi. Quindi aspettiamo i vostri messaggi, SMS, WhatsApp e Telegram, ma soprattutto audio Brensi al 333 180 94 94. Ma ora ci ascoltiamo delle Bikini Kill, Rebel Girl, per Anna. Anna, tutta per te. She got the hottest track in town. That girl, she always E siamo tornati sui 103.1, Lucri, Adelina e Giuli. Io vorrei subito fare una precisazione, perché ci scrivono al 333 180 94 94 la dedica alla canzone era anche da parte mia. No, non è vero, Anna. Ma io direi di sì. No, non è vero. Chi ha impostato la canzone? Ma cosa vuol dire? L'hai fatta parte. Oggi c'è del dissing, qua. Oggi c'è del dissing. C'è del dissing tra Lucri e Adelina, e quindi ci meritiamo questo. No, no, tutti i vabbè, sostanzialmente, quindi Giuli, ci devi salvare tu da questa puntata, puntata che è appunto tutta a tematica musica. Vabbè, vuoi raccontarci qualcosa? Appunto, prima abbiamo parlato degli Zen, abbiamo parlato dei management, abbiamo parlato di concerti. Il tuo ultimo concerto qual è stato? Management. E infatti, sì. Era... Come la luna, è bellissimo. Poi mi ricordo che sono andata a questo concerto a febbraio dell'anno scorso, mi ero lasciata da poco e quindi ero tipo in un pianto continuo per tutto il concerto con quella canzone, poi soprattutto. Cioè, loro in realtà non è che fanno canzoni che fanno piangere, però beh, quella canzone, insomma, diciamo che era abbastanza traumatica. Un po' tutta la musica indie, quando soprattutto sei stata lasciata, posso chiedere? O hai lasciato, è diverso. No, ho lasciato, ma mi sentivo male comunque. Si sta male comunque. No, perché effettivamente in questo mood la musica indie in un qualche modo comunque ti salva. Sì, ti salva, deprimerti ancora di più. Esatto. Vabbè, ma ti salva. Perché deprimendoti, andando proprio fino in fondo, alla fine riesci un po' a rinascere, capito? Dopo la sofferenza totale, riparti un po'. Poi un po' la musica indie, cioè, la reputa un po' cinica sotto alcuni punti di vista, però anche quello è il bello, cioè, che la caratterizza. Quindi ci sta. E a proposito di depressione, temi molto felici oggi. Esatto. Beh, ma questo è uno dei miei cavalli di battaglia. Vai, Adelina. Perché la dedica che ho fatto ad Anna è di un gruppo che si chiama Le Bikini Kill. E io dovevo andare a sentire Le Bikini Kill la scorsa estate, prima che scoppiasse il mondo. Cosa hanno fatto? Le Bikini Kill hanno deciso di rimandare di un anno, semplicemente un anno, la data. Quindi io sono ancora in attesa della conferma da parte dell'agenzia che mi conferma. Loro stesse. Spero che me lo dicano loro, in effetti, e mi dicano sì, a luglio puoi venire ad ascoltarci. Quindi Bikini Kill, per favore, ditemi che posso venire al vostro concerto e che non lo rimanderete ancora di un anno, perché ormai si è fatta una certa e sono 2 anni che aspetto. Quindi vi prego, se no la mia depressione aumenta e poi non so più cosa fare. Ma soprattutto, effettivamente, quasi tutti i concerti sono stati circa rimandati di un anno e mezzo, 2 anni, e ormai appunto già più di un anno è passato, quindi sono, a parte appunto un pochino di respiro quest'estate con qualche concerto, ad esempio appunto io ho visto i Tre Allegri, Ragazzi Morti e Vasco Brondi, al tutto molto bello, però effettivamente, a parte appunto qualche concerto quest'estate tenuti all'aperto, distanziati, tipo una seduta sì e 12 no, quindi era ti giravi intorno ed eri solo, quindi ovviamente mancava anche tutta quella parte umana ed emotiva che hai con le persone durante un concerto. Sì, e pensa che mi hai fatto venire in mente un'altra cosa, perché io quest'estate avrei dovuto andare ad ascoltare il Calibro 35 al Locomotive, all'Arena Puccini, anzi, e quindi quello poteva essere il mio potenziale ultimo concerto, ma io ho deciso di non andarci perché dovevo preparare un esame, quindi ho regalato il biglietto a una mia amica. No. E poi non mi sono presentata alla. Beh, ma guarda, hai fatto proprio non una, ma ben 2 scelte. Mamma mia. Niente, vabbè, però la mia amica ma mi ha detto. Ma sai che in realtà è stato bello, perfetto. In realtà forse mi sto sbagliando. L'ultimissimo concerto lo avevamo visto insieme ai tuoi amici in Montagnola. Ah, è vero, gli Electric Circus. Che tra l'altro li abbiamo passati martedì all'interno di Fermata Provvisoria. Esatto, ma non dovevi dire che sono i miei amici, Luca. Vabbè, ma ho capito, ne intendi di musica, vivi di musica, è partito anche quando Luca fa battute squalide e quindi, insomma, conosci molti musicisti. Sì, conosco molti musicisti e loro sono tra questi. Gli Electric Circus sono un gruppo fighissimo, possiamo banalizzarli così forse, che fanno un funk psichedelico, così l'hanno definito loro. E siamo andati a sentirli in Montagnola per il Montagnola Republic organizzato dal binario 69. E c'era comunque anche lo zampino di Radio Città Fujiko. Esatto, sponsor by. Sì. E no, è stato. Non esatto. Chiara Ferragni, ma Radio Città Fujiko. Noi rimaniamo un po' più umili. 103.1. Grazie, Lucri. Via Zanardi 369. Grazie, Lucri. 333-180-94-94. Alfonso, dove sei? www.radiocittafujiko.it. Allora io chiedo il cambio, ma prima prima di dare il cambio in questa puntata di oggi un po' ottima bene ottimo. Ma anche perché, scusate, non avete ancora mandato un messaggio con scritto ottimo, che ottimo. Tra le righe il senso era quello. Vediamo quanti messaggi con scritto ottimo o ottimo e abbondante arriveranno al 333 180 94 94, e sceglieremo l'ascoltatore o l'ascoltatrice ottima o ottimo. Secondo me non ci scriverà nessuna. Ottimo, nessuna. Mi viene da dire ottimo. Ottimo, meglio così. Come ottima è la prossima canzone che ci ascoltiamo, appunto il mio ultimo, quasi ultimissimo concerto con i Tre Allegri Ragazzi Morti, che si chiama... Ninna Nanna per Nina. Ninna Nanna per Nina, Tre Allegri Ragazzi Morti. Ragioni superiori, osserva e E abbiamo appena ascoltato i Tre Allegri Ragazzi Morti con Ninna Nanna per Nina, che ammetto che è un po' uno scioglilingua. Ninna Nanna per Nina, allitterazione della N. Vuoi spiegarci cos'è l'allitterazione? No, no, non ne voglio. Però dai, si spiega da sola l'allitterazione. Beh, certo, dai. Chiaro, che domande. Quando viene ripetuta per sottolineare magari un suono, una lettera all'interno di una parola o più parole, ecco. Ma a proposito di allitterazione, prima abbiamo ascoltato questa canzone, Mr. Brightside The Killers. Sì, è una canzone a parer mio molto bella. E tra l'altro io ero letto un articolo di Billie Eilish che proprio diceva che lei di solito quando entrava in macchina e sentiva questa canzone in radio, cioè le è capitato più volte di piangere. Infatti ha detto che è un gruppo che ha segnato molto la sua infanzia, sia la sua che quella di suo fratello. E quindi niente, cioè un attimo ci sono rimaste. Io Billie Eilish non l'ho mai approfondita più di un tanto, però ho scoperto questa canzone grazie a lei e mi è piaciuta un sacco. Lei tra l'altro secondo me invece è da approfondire, secondo me è molto brava, giovanissima. Lei è molto brava perché diciamo che è entrata nello scenario musicale in maniera un po' commerciale comunque. Sì. Adesso la prima canzone che mi viene in mente è Bad Guy, che comunque è un pop rock molto commerciale, ma è una bellissima canzone. Però fatta molto bene. Fatta molto bene. Io ho ascoltato dei suoi live che canta spesso accompagnata da un piano, quindi magari piano voce, e lei ha una voce bellissima e io ammetto che ho pianto per una canzone di Billie Eilish ascoltando una canzone di Billie quindi Eilish. Quindi ascoltate Billie Eilish se volete piangere, ma soprattutto l'altro nostro collegamento è con Friend. Sì, più che altro perché sempre leggendo in questo articolo poi ho visto che Billie Eilish è figlia di comunque di due genitori che entrambi fanno parte dell'ambito artistico, con un padre attore, e sua madre ha fatto addirittura un cameo in Friends. Anche qua io non lo sapevo, innamoratissima di Friends, ho scoperto questa cosa anche perché ho visto sua madre e ho detto cavoli, cioè non si assomigliano per niente. E quindi niente, ho letto questa cosa e ho scoperto anche sempre da poco un aneddoto un po' divertente anche in questo caso, perché vediamo Julia Roberts che anche lei fece un cameo in Friends, ma che ci è voluto un attimo prima di convincerla a fare questo cameo, e l'ha convinta proprio Matthew Perry, nonché colui che interpreta Chandler Bing. In pratica lei non voleva partecipare a Friends, ma Chandler gli ha detto guarda, Partecipa insieme a noi, e lei ha fatto ok, io partecipo, ma tu entro domani mi fai una tesina riguardante la fisica quantistica. Quindi c'è una roba assurda, nel senso uno non se l'aspettava, ma arriva Chandler che il giorno dopo gli manda via fax questa tesina e l'ha convinta. Poi da lì nasce una sorta di storia d'amore che dura per un po' di tempo. Wow, è un po' strano amore, mi è piaciuta questa storia. Grazie Giulia, io non la sapevo, ma adesso guarderò Friends sotto occhi diversi. No, anche perché effettivamente quando si inizia a indagare nelle cose, che è un po' come noi costruiamo le puntate, apriamo collegamenti e si scoprono tantissime cose, come si scoprono gli audio che ci state mandando sempre al 333 180 94 94. Continuate a mandarceli, non vediamo l'ora di mandarli in onda, come il prossimo che vi facciamo ascoltare. Vediamo un po'. Forlì, il mio ultimo concerto è stato all'Ippodromo di Milano, Marilyn Manson, nel 2018. Piacevole, accalcati come bestie pronte al delirio. Un abbraccio. Beh, effettivamente quando si va a un concerto Quanto ci manca, quella sensazione, sì. Lì è spiegata benissimo, come bestie. Ok, è un po' singolare questa immagine, però mi piace. Vabbè, ma sono quei parterre, quei festival d'estate, tutti ammassati, sotto fa sole. Caldo, sotto il sole di Riccione per tutto il giorno. Ti aspetti in fila, in coda, tipo ore e ore e ore, nella speranza che passi qualcuno a portarti una birra, sì, fredda. Ma anche una bottiglietta d'acqua a un certo, sì, punto. Per idratarti di qualsiasi tipo, e quando finalmente entra, toccate, devi entrare, e entri dentro con la bocca asciutta e ti tocca spendere. Ma 5 euro. Ma Adelina, perché... oggi sei proprio mai una gioia. Tu. Lo so. Mi hanno tolto i Minion e non posso metterti il jingle. So, mai una gioia, mai una gioia. Mai una gioia. Oggi mi sono svegliata triste. Oggi ti sei svegliata triste. È un ottimo mood per iniziare una puntata insieme di questo Fuchico Factory. Ma voi potete continuare a scriverci al 333 180 94 94. qualsiasi anche modo per tirar su di morale Adelina, che già la musica e la radio qualcosa fanno. Sì, è vero, la musica è uno dei miei metodi preferiti per farmi passare la tristezza. E come altro metodo sicuramente c'è andare ai concerti, appunto ci manca andare ai concerti, però almeno ne parliamo e sblocchiamo un po' qualche ricordo. Infatti ho scritto a mio cugino dicendogli: ma raccontami il tuo ultimo concerto. Lui me lo ha raccontato, tra poco lo trasmetteremo tra l'altro, e poi giustamente mi ha scritto: sì, ma mi hai sbloccato un ricordo che effettivamente non ci stavo più pensando e mi mancano veramente tanto, perché appunto leggevo anche un articolo ieri di una prima di un balletto che non mi ricordo esattamente dove, credo a Parigi, hanno praticamente documentato cosa significa fare uno spettacolo senza pubblico. Tristissimo. Tristissimo, ma soprattutto si sente il che quando c'è il pubblico, che anche se sta in silenzio un minimo di rumore, 1000, 2000, 5000, 10000 persone fanno, si sentiva nel video che ha fatto credo Repubblica in questa anteprima di questo balletto, credo appunto a Parigi, si sentiva il rumore del sipario che si apriva e si chiudeva, cosa che normalmente non si sente, si sentiva il diciamo il respiro dopo la fine della performance dei ballerini, quindi si sentiva tutta una tipologia di, c'era talmente tanto silenzio, un silenzio assordante che veniva coperto da questi rumori che normalmente durante uno spettacolo non sentiamo, non vediamo e non percepiamo. Pensa come cambia la percezione anche per un artista, musicista o comunque una persona che vive di arte e quindi deve esibirsi in scena, non avere un pubblico, perché comunque non è la stessa cosa, e credo che anche a livello poi performativo si senta e influisca molto poi sulla scena. Assolutamente, perché comunque ti manca quell'impatto emotivo, che sapere che hai il calore anche di persone che sono davanti, che quindi in qualche modo riempiono lo spazio dove tu ti stai esibendo, la famosa anche quarta parete di Pirandello. Wow, scusatemela. Ma dove sono gli applausi, scusa? Devo mettermeli? Vai. Sulla quarta parete di Pirandello, che appunto nello spettacolo teatrale la quarta parete la fa proprio il pubblico. Quindi senza il pubblico rompiamo una parete che è essenziale in uno spettacolo. Sì, poi penso anche a tutte quelle musiche fatte sul momento, come la musica jazz, che è tutta improvvisata. Ora non dico che il musicista sente e condiziona il modo di suonare, però sicuramente ha un minimo di influenza questa cosa, perché comunque tu senti il calore, senti una risposta, il pubblico che interagisce con te, e di conseguenza anche tu vai a modificare tutta una serie di movimenti e gesti, e poi anche la tua musica. Vedi che sono triste per forza, come si fa? Ma tu non felice? Essere triste, perché ora avremo 6 minuti di chiacchierate con voi che ci avete scritto al 333 180 94 94 e siamo felici di lasciarvi il microfono e farci raccontare da voi cos'è stato per voi e dove è stato il vostro ultimo concerto, e di raccontarcelo sui 103.1. Allora, ultimo concerto che ho visto, se la memoria non mi inganna, deve essere all'Alcatraz a Milano, novembre di ormai del 2019, quindi ormai quasi un anno e mezzo fa, dove sono andato a vedere Massimo Pericolo. Devo dire, gran figata, un genere particolare, un po' strano in senso positivo, nel senso che è un rap che secondo me non fanno tante persone in Italia, ed è stato molto bello, molto bello. Sono andato con un paio di amici, siamo divertiti, e adesso a pensarci mi viene anche un po' di nostalgia, ad essere sincero, a quando si poteva stare tutti vicini, attaccati, senza problemi. Ciao Luqui, ciao Radio Città Fujiko, ciao Fujiko Factory. Allora, l'ultimo concerto... Proprio l'ultimo? Allora, l'ultimo prima di... Mannaggia, è saltato il concerto degli Ash di febbraio, mi ha fatto girare un sacco i maroni. A febbraio l'ultimo era stato Dardust al TPO. E i Deluxe al Mercato Suonato, eh? Che figata. Invece l'ultimo effettivamente è stato Cisco, direi. Al rifugio, al Poggiolo. Al Poggiolo a Montesole, che lì era bellissimo. C'era un po' freschino, perché a ottobre lassù un pochino freschino fa qui. Però che storiaccia, C'era molto bello. La gente. Cisco, che comunque è tanta roba. Sì. L'ultimo concerto a cui sono stata è stato la scorsa estate al parco di Villa Angeletti qua a Bologna, quindi all'aria aperta in mezzo al verde, ed era il concerto di un mio caro amico Gabriele Fabri, in arte Fabri, ed è stato bellissimo perché vederlo suonare dal vivo per me è sempre molto emozionante, e poi gli ho fatto anche da balletta e quindi è stato ancora più divertente. Il mio ultimo concerto, beh, lo sai anche tu Lutri perché eri presente, è stato Vasco Grondi con Talisman per tempi incerti lo scorso settembre, che serata folle perché pioveva a dirotto e sembrava che il concerto dovesse saltare perché di Vasco Grondi non si avevano notizie da un'ora, e quando io ho visto i fonici cominciare a coprire con i teli tutte le strumentazioni varie, ho detto ecco, niente, concerto saltato. Invece poi il cielo si è aperto, ha smesso di piovere e quindi il concerto è iniziato con un'ora e mezza di ritardo, però poi ne è valsa la pena perché è stato uno dei concerti più belli, con lui che alternava le canzoni alle letture di poesie, a momenti meditativi in cui nessuno parlava, e è stato molto bello. Ciao amici di Fujiko, sono Benny e il mio ultimo concerto credo che sia stato Margherita Vicario in provincia di Siena, ma in realtà penso sempre al mio ultimo concerto come l'ultimo che ho visto prima dell'inizio del primo lockdown. È stato il concerto dei Big Thief a Locomotive, ci penso davvero tutti i giorni perché poi dopo non è mai più stata la stessa cosa, e mi chiedo quando sarà di nuovo la stessa cosa andare a un concerto e provare le emozioni che ho provato quella sera. Comunque, concerto bellissimo, la band spacca, ve la consiglio, vi mando un bacione, ciao! Ciao a tutti, il mio ultimo concerto è stato di Laura Pausini nel lontano 2018, proprio il giorno del mio compleanno. Ciao, sono Michele e suono il clarinetto, sono allievo del maestro Piero Vincenti e sono all'ultimo anno del biennio al Conservatorio di Cesena. Il mio ultimo concerto è stato purtroppo inizio ottobre a Roma, Villa Borghese, in trio con violoncello e pianoforte, rispettivamente Alessio Tianelli, violoncellista, e Mario Montero, pianoforte. Abbiamo suonato il trio opera 11 di Beethoven, a cui avrebbero dovuto seguire due concerti a Napoli in ottobre, che purtroppo chiaramente sono stati cancellati. Speriamo che questa situazione ritorni perlomeno un minimo alla normalità il prima possibile. Even your year. E siamo tornati sui 103.1, abbiamo appunto dato voce a voi che ci state ascoltando, ma ne stanno arrivando tantissimi altri, quindi non vediamo l'ora di farveli sentire sui 103.1. Però noi stavamo ascoltando poi questa ultima canzone che abbiamo mandato. È una canzone che ha avuto un grandissimo successo, soprattutto appunto per essere la sigla di Friends, cioè da lì ha avuto un grandissimo successo, anche perché vediamo che è stata fatta inizialmente solamente per la sigla, quindi quei 30 secondi di tormentone, ok. Poi però i Rembrandts l'hanno voluta aggiungere al loro album ed è stata proprio un'aggiunta dell'ultimo secondo, quindi una cosa che ha portato proprio le vendite dei loro dischi a palla, insomma. Sì, tra l'altro mi fa stranissimo ascoltare questa canzone senza poi aspettarmi che inizi una puntata di Friends. Esatto, esatto. Perché è un po' collegata e tra l'altro Friends è una delle grandi serie che io e la mia coinquilina Anna amata da casa che ci sta ascoltando. Anna da casa. E ancora ciao Anna, quanto mi manchi oggi, mi manchi tantissimo. Cioè non si vedono tipo da un'ora. No, un po' di più. Due ore e un quarto, esatto. Forse tre. Anna sta riguardando per la 45ª volta Friends. Però perché ci sono, noi abbiamo fatto anche tutta una puntata sul dissing, tra l'altro con te e Anna, su serie TV oppure... È vero. Serie TV o film. Le serie TV effettivamente creano dipendenze in questo genere. Io non sono un amante, diciamo, di riguardare cose che ho già visto, soprattutto film, però effettivamente ci sono serie TV tipo Grey's Anatomy, io penso che le prime stagioni di aver visto alcuni episodi anche 20 volte. Sai che forse a me non è mai capitato di riguardarmi una serie TV, forse solo Friends appunto. Però tipo Grey's Anatomy è perennemente in onda e quindi, cioè, facendo zapping, cosa che non faccio in realtà spesso, però Grey's Anatomy capita, soprattutto anni fa, che era perennemente in onda. No, non è vero, i Simpson. I Simpson, vabbè raga, i Simpson. Sì, li ho rivisti credo 45 volte e continuano comunque ad andare avanti con le stagioni, e però io sono indietro di qualche anno adesso. Sì, no, anch'io ormai penso di essermi totalmente persa, ma tanto la storia è sempre quella, quindi puoi anche perderti 1200 puntate e non cambia assolutamente nulla. Sì, tra l'altro io mi sono sempre chiesta, dopo tutti questi anni, comunque i Simpson hanno sempre la stessa età. Sì, a parte le voci dei doppiatori che nel mentre comunque muoiono o cambiano lavoro o insomma recedono il contratto, quindi le voci poi in 20 anni cambiano. Come la voce di Homer, che era di Torino a Colla, grande doppiatore, sì, della storia. Ora campioneremo questo, sì, suono di Lucri. No, campioneremo Homer Simpson. Esatto, doppiata da Ce lo meritiamo. Colla, e purtroppo è mancato qualche anno fa e ora un nuovo doppiatore ha ripreso la sua voce, però non è più lo stesso. Si sente, cerca di un po' avvicinarsi a quella che era la voce originale, però i più attenti. Però è un po' come Beautiful. Tu, Giulia, guardavi Beautiful, guardi Beautiful? No, mia madre lo guardava, ma ho sempre, no, l'ho skippato sempre. Ecco, mia madre invece guarda Un posto al sole. Ma questa serie, cioè questa tipologia di, che sono comunque, come possiamo chiamarle? Telenovela, no, sì. Telenovela sono spagnole, queste sono soap opere. Hanno una soap opera. Questo è l'esame di radio e televisione. Che ho dato pure io. Esatto, io pure, ma no. Benissimo, l'abbiamo dato tutti. Tu, Alfo, lo hai dato? Io no, però forse lo darò, chi lo sa. Ecco, vedi, chi lo sa, questo è un ripasso quindi anche per te, che in realtà ovviamente hanno tutte delle costruzioni molto particolari, stanno in alcuni tempi, stanno con la trama in un certo modo, e quindi anche in Un posto al sole Beautiful tu puoi anche non guardarli per un anno. Cioè io quando torno a casa non lo guardo per 3 mesi, ma la storia è sempre quella. Sì, diciamo che le storie d'amore sono le vere protagoniste di ogni, sì, soap opera che si meriti questo nome. E quindi Un posto al sole comunque fa di queste storie d'amore. Perché io, ora confesso, d'estate lo guardi, ogni tanto lo guardo. Che c'è anche Un posto al sole versione estiva, sì, e certo, quindi si va a Posillipo e si va al mare. Eh sì, invece quest'anno niente mare. Stessa spiaggia, stesso mare. Ma a proposito di questo, noi appunto vi stiamo raccontando i concerti, quindi vi diamo ancora voce, sentiamo ancora altre testimonianze sempre al 333 180 94 94. E l'ultimo concerto non ne ho la più pallida idea, so che è passato un sacco di tempo. Avevo quasi comprato il biglietto per il concerto dei Rage Against the Machine nella reunion, ma poi è scoppiata la pandemia. L'ultimo mio concerto è stato il concerto di Vasco Brondi, Talismani per tempi incerti, al tutto molto bello. Il festival che c'è stato quest'estate a fine settembre è stato un concerto molto strano perché diluviava, quindi è iniziato tipo quasi alle 11 di sera, però è stato un concerto bellissimo e il giorno prima avevo sentito anche i Tre Allegri Ragazzi Morti, quindi quelli sono stati i miei ultimi due concerti, appunto a settembre 2020. Il mio ultimo concerto è stato a Napoli a sentire Tochigno. Il mio ultimo concerto è stato quello di Era Serenase, un duo genovese, al Covo il 14 febbraio 2020. Era San Valentino, il pubblico era composto da 8 persone e io non sto più con la persona con cui sono andato, però rifarei tutto. Il mio ultimo concerto è stato il concerto di Coez che ho visto a novembre 2019 e avevo vinto i biglietti per me e la mia ragazza tramite Radio Città Fujiko. Il concerto non è stato granché, non ha soddisfatto molto le mie aspettative, però comunque eravamo in compagnia ed è stato divertente perché con gli amici è sempre tutto più bello. Ed è vero, con gli amici è tutto più bello, soprattutto appunto anche i concerti che ci mancano molto. Ci ha raggiunto Alfo, benvenuto su 103.1. Grazie a tutti, mi sono mancato un po'. Ma sì, dai, un Alfo, pochino sì, lo ammettiamo. Tantissimo, anche se tu sei troppo alto per partecipare a questa diretta di oggi. Allora hai sentito, no, che c'era un po' questo dissing? Sì, ho seguito, infatti. Speravo di intervenire presto per riequilibrare, ma forse non equilibrio neanche tanto. Quanto comunque, sei alto? Io 1,86. Vabbè, equilibra, no? Io non lo dico quanto sono alta. No, sono abbastanza normale. Abbastanza normale, perfetto. Sei ottimo. Abbastanza normale, è vero, dovresti entrare in diretta dicendo la parola chiave di oggi. L'ultimo concerto. Ottimo. Sei stato attento, sì, ottimo. Sì. Ti meriti un ottimo e ti meriti di raccontarci il tuo ultimo concerto o uno degli ultimi. Allora, io non racconto proprio l'ultimo concerto, ma uno degli ultimi che ho più apprezzato. Parliamo del concerto di Caparezza a Forlì, seguito nel 2018, se non ricordo male. Era da poco uscito il suo ultimo album, Prisoner 709, e Caparezza, diciamo, è un intrattenitore formidabile, un personaggio che veramente riesce a mantenere il palco come pochi altri ho visto. Infatti tutto curato nei minimi dettagli, tra l'altro per un brano che ha un forte significato. Adesso quindi ci ascoltiamo Larsen, uno degli atti del suo album racconto, che è Prisoner 709. In questo album, in questo brano qui, appunto, Caparezza racconta il suo problema con l'acufene, ossia un disturbo all'orecchio, un fischio costante all'orecchio che lui nella sua storia paragona un po' a una tortura, proprio la tortura del detenuto, che appunto è quello che lui subisce sulla sua pelle e che vuole raccontare. Tra l'altro io questa cosa non la sapevo, ma la mia coinquilina alle 2 di notte qualche notte fa ha fatto questa ricerca, ha scoperto di soffrire di questa cosa alle 2 di notte nel gruppo tra coinquiline, lo ha scritto e quindi abbiamo scoperto che Fra soffre di, ripeti la parola? No, è acufene. Acufene, quella acufene. Cosa lì che non sapevo cosa fosse, tu lo sai spiegare? Ma l'acufene è quando per via principalmente, ed è quando uno viene sottoposto per lungo tempo a suoni intensi, sì? Può succedere che si laceri appunto il timpano e che quindi si senta un fischio costante, un po' come quando il microfono fischia, non so se avete presente, pensatelo costante 24 ore su 24 all'orecchio. Questo appunto quello effettivamente fa uscire un album come lo ha fatto uscire Caparezza, ma ricordatevi che appunto Fujiko Factory è Radio Verità, quindi vi parliamo anche di malattie e vi parliamo effettivamente un po' di tutto, ma sempre tutto condito con musica. Una continuazione, ma come si fa con i calzi? Da solo nelle padarnarmi, nella stellare, andare, scolore che ho preso, ammazzate con un McGregor Alvarez. Uno squillo ossessivo, come un pugno sul cazzo, un primo pensiero al mattino, l'ultimo prima di buttarmi giù dal terrazzo. Fischia l'orecchio in furia la cufene, nella testa vuvuzela mica l'ukulele. La mia resistenza è quella Zulu cede, se arriva l'Arsen te lo devi tenere. Fischia l'orecchio in furia la cufene, nella testa vuvuzela mica l'ukulele. La mia resistenza è quella Zulu cede, se arriva l'Arsen te lo devi tenere. Di là se ne metto mano alla fondina, alzo la cortina, sentivo fischi pure se il locale carico applaudiva, calo d'autostima. Non potevo ascoltare la musica come l'ascoltavo prima, io l'agostina, una pressione continua, la depressione poi l'ira. Mi rivolse ad uno specialista che mi disse c'è una sola cura, come prima cosa nella lista, parla con l'orecchio, chiedi scusa, poi compress, flevo doppie, R.M., ecco doppie, ecco niente, ecatombe, lasciami in denti, era stop, credevano che fossi matto. Volevano portarmi dentro, ho visto più medici in un anno che Firenze nel rinascimento. Stress, iniziano a dire, non sanno che pesci pigliare, a parte quello d'aprile, vorrei vederlo sparire. Fischia l'orecchio in furia la cufene, nella testa vuvuzela mica l'ukulele. La mia resistenza è quella Zulu cede, se arriva l'Arsen te lo devi tenere. Fischia l'orecchio in furia la cufene, vuvuzela mica l'ukulele. La mia resistenza è quella Zulu cede, se arriva l'Arsen te lo devi tenere. Te lo devi tenere. Te lo tenere. So come ama l'Arsen, so come ama l'Arsen, so che significa stare in un cinema con la voglia di andarsene. L'arsenale, non pensavo mandasse male, solo chi ce la comprende quello che sento nel senso letterale. E poi non mi concentro, mi stanca, sto invocando pietà, l'arsen, il suono del silenzio a me manca, più che a Simon e Garfunkel, nel cervello c'è Tom Morello che mi manda feedback. Hai voluto il rock, ora tienilo, fino alla fine. E come dice Caparezza, quando arriva l'Arsen te lo devi tenere. Infatti è una... Teniamocelo. È un, sì, ce lo teniamo. Procediamo quindi adesso con un altro brano. Quale, Adelina? Eh beh, non lo so ancora. No, in realtà prima di procedere con un altro brano, io in realtà procederei ad ascoltare altri di voi che ci stanno continuando a scrivere, esatto, o mandando audio. Brensi, questa è la cosa più importante. Brensi, tu Alfo sai cosa vuol dire Brensi? Breve e intenso, perché sono stato attento. Bravissimo, però, 100 punti a Grifondoro, ma continuate a farlo al 333 180 94 94, perché vogliamo appunto questa puntata farla insieme a voi, quindi sentiamo un po' cosa ci raccontate. Buonasera amici di Radio Fujiko, un grande saluto a tutti voi e anche al mio amico Alfonso. E l'ultimo concerto a cui sono stato era di Matteo Professione, detto anche Ernia. Veramente un concerto bellissimo nei pressi di Cesena, più che un concerto un'esibizione, perché era una location particolare, una discoteca, che però quella sera fungeva solo da location per un concerto. Tra altre cose, Ernia quella sera non si sentiva nemmeno tanto bene, aveva un po' di febbre, però ce l'aveva messa veramente tutta. È stato bello, un concerto familiare, veramente bello, un grande artista. Un saluto a tutti voi. E un saluto a te, grazie appunto per averci raccontato la tua esperienza con Ernia. Ed effettivamente ha detto una cosa molto interessante, perché spesso comunque gli artisti si trovano a doversi esibire anche quando probabilmente hanno una giornata no, o quando insomma hanno anche i cavoli propri, come giusto che sia, però insomma poi si è sul palco e bisogna comunque portarsela a casa in qualche modo. Sì, sempre ricollegandoci al discorso che facevamo prima, pensa un artista quanto ha bisogno del pubblico per anche lui essere, o lei, essere tirata su e affrontare tutto il concerto, la performance, anche quando non si sta in forma, ecco. Sì, sicuramente, infatti è quello che appunto ci manca reciprocamente, tirarci sul morale con la potenza che solo la musica sa fare. E appunto noi all'interno di questo giovedì di Fujiko Factory vi parliamo di concerti e poi in un qualche modo vi troviamo anche già una soluzione, che è appunto rimanere sintonizzati fino alle 17 e ascoltare. Allora, non so se dobbiamo fare partire un altro audio. No, ragazzi, dobbiamo dire cosa va in onda dopo di noi. The show must go on. Perché appunto lo show continua, la musica continua, quindi dalle 16:30 alle 17. Scusa Delina, mi divertiva che eri disattenta. Ma io invece ti ascolto sempre, però ogni tanto ti guardo e non capisco cosa sta per succedere. Perché il bello della radio è che ovviamente noi ci dobbiamo capire con gli sguardi. Però Adeli, se non ci capiamo è un problema. È un problema, Lucri, però non voglio indagare adesso questo problema. Poi andiamo a berci un caffè e affrontiamo questo problema. Sicuramente, ma appunto, Alfo, che dici? Diamo voce ancora a un'altra persona che ci vuole raccontare la sua esperienza. Certo che sì. Ciao amici di Fujiko, il mio ultimo concerto è stato qui nel Forlivese e sono andato a questo concerto jazz di un artista comunque emergente, Nathaniel von Bismarck, ve lo consiglio, cercatelo, e mi ha scaldato il cuore, comunque ottimo. Mi ha scalato il cuore, è una cosa bellissima da non dire. Non ha detto mi ha scaldato? Sì, mi ha scaldato. Io ho capito scalato. Vabbè, scaldato e scalato il cuore, mi sembra una cosa buona e giusta, è quello che appunto sa far la musica. Ma chi altro ci può scaldare il cuore? Lui, solo lui, Battiato. Battiato con? Summer on a Solitary Beach. Viaggia solitaria e ci arrivava l'eco di un cinema all'aperto e sulla sabbia un caldo tropicale dal mare. Il sole ci nutriva di tanto in tanto, un grido copriva le distanze e l'aria delle cose diventava irreale. Mare, mare, mare, voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Portami lontano sulle onde. Solitary beach against the sea, le grand hotel Cigale Magique, mare, mare, mare, voglio annegare. Portami lontano a naufragare. Via, via, via da queste sponde. Summer on a Solitary Beach di Franco Battiato sui 103.1, che ci accompagna verso la fine di questo nostro trio in diretta. Alfo, Luca e Adelina. Oh, che bello, grazie. Questo sottofondo che mi piace tantissimo. Grazie, Lucri. Ti prego, smettila. Oltretutto Battiato ci pone di fronte a un'altra domanda, o quale? Forse quella che mi faccio io nella mia testa: cosa succederà quest'estate? Cosa succederà quest'estate? Se la passeremo da soli su spiagge solitarie, oppure se forse finalmente riusciremo ad andare ad un concerto non da sedute distanziate, ma forse un po' più vicine, un po' più accalcate. Ed è quello effettivamente che insomma un po' anche noi speriamo, ma appunto effettivamente insomma in questo periodo quello più colpito dalla pandemia, dal relativo lockdown, sono sicuramente i cinema, i teatri, i musei, ma soprattutto i club musicali dove si svolgevano appunto i concerti. Diciamo che proposte di legge per migliorare l'aspetto legislativo del settore, come ad esempio proteste come quelle diciamo dei bauli con contenitore che contengono il materiale tecnico per la realizzazione di un concerto, vuoti in segno di protesta a Roma e anche Milano, è stata una delle tante cose. Poi ci sono state raccolte fondi, poi appunto è scattata l'operazione Ultimo Concerto, che è quello di cui insomma un po' vi stiamo parlando oggi, e un po' ci si chiede: ma lo Stato in tutto questo cosa ha fatto? Ma sostanzialmente niente, possiamo sintetizzarla così. Anche perché in realtà il decreto 34, che è il decreto, per chi magari un po' lo ha già sentito nominare, è quello per i ristori, per capirci meglio, erano quelli diciamo soldi indirizzati alla musica pop, proprio nel significato più esteso del termine, che ha alimentato soprattutto le multinazionali, quindi insomma ha aiutato chi sostanzialmente i soldi già li ha, non ha aiutato quindi tutta quella parte di settore musicale indipendente o comunque appunto come che si può dire, ha sempre fatto fatica a sopravvivere all'interno del mercato e degli squali all'interno di questo mercato, che comunque il mercato musicale sappiamo che è anche questo. Tra l'altro mi ricordo, quando era appena scoppiato il lockdown, di aver visto un video da parte di un corpo di ballo di Parigi, che hanno fatto un balletto al di fuori del teatro ed è stato bellissimo. Quindi ci sono anche queste forme di resistenza da parte dei soggetti interessati, degli artisti, per resistere a forme di resistenza artistiche, che effettivamente ce ne sono sempre molte, che cerchiamo sempre di raccontarvi all'interno del nostro Fujiko Factory. Ma diamo voce a un altro ascoltatore o ascoltatrice, sempre al 333 180 94 94. Ciao cari, il mio ultimo concerto è stato quello di Riccardo Lolli, che fra l'altro questo era Gallery 16 in via Vario Sauro a Bologna. Fra l'altro Riccardo ha un programma proprio su Radio Città Fujiko, si intitola Uova, Soda e Noci, ed è a mezzanotte di giovedì, se non sbaglio. Ciao. E grazie a te per averci raccontato appunto il tuo ultimo concerto, per averci anche un po' ricordato il palinsesto di Radio Città Fujiko sui 103.1, che effettivamente è pieno di tante cose belle. Com'è bella l'ultima canzone con cui vi salutiamo infatti con Lonely Boys dei The Black Keys, legata anche diciamo a una mia esperienza, perché un concerto a cui dovevo andare con tra l'altro il mio caro amico Giuliano Mazzotti, detto il mago, che purtroppo però all'ultimo istante è sparito è sparito nel vero senso della parola, perché si è ammalato e non siamo potuti andare. Comunque ciao Giuliano, ecco i The Black Keys. E noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia sui 103.1, ma soprattutto per averci scritto e mandato audio brensi così numerosi, per aver quindi costruito la nostra puntata di giovedì di Fujiko Factory insieme a voi. Ringrazio i miei compagni di avventura di questa puntata. Grazie Lucri. È un piacere essere qui. Ed è un piacere essere qui anche per me, che appunto ritorneremo con Fujiko Factory sempre dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17, e ora finalmente spazio alla musica live con The Show Must Go On. Ma prima ci ascoltiamo i The Black Keys. Ciao.